È solo un momento, no. Un momento, no. Magari poi passa. Magari poi passa. Almeno credo. Almeno credo. Ma intanto, sono bloccato nella vita mia e non c'è uscita da questa via. Io mi nascondo, sembro sia chiuso in auto nella Fiat. Eppure oggi non va bene niente. Forse domani sarà meglio. Mente. La mia famiglia non ha un karma vincente. Sono sempre stato bravo, un bravo perdente. E mi dicono tranquillo, tutto passa. Certo, credi che se lo dici poi sto meglio. Credi che ci spero, un tempo ci credevo. Ora sono fisso se non vedo, non credo. Problematica è la vita, un problema più tanti uguale. Ansia e pensiero fratto sfiga. È la prova del 9. Vinco un duello se il mio avversario muore. Potrebbe andare peggio, inizia a piove. Sto bene, forse no. Me la cavo, forse boh, tutto ok, forse oh, ce la faccio, sai non so, io sto bene, forse no, me la cavo, forse boh, tutto ok, forse oh, ce la faccio, sai non so. Non so quello che mi aspetta, ma voglio quello che mi spetta. Non so quello che mi aspetta, ma voglio quello che mi spetta.